9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 11 luglio. Mi scuso perché oggi la qualità della mia emissione sarà leggermente inferiore al solito, perché conduco la trasmissione questa volta non dallo studio di Milano di Roma, ma da un collegamento a volante per un convegno che devo fare, ma spero che sia tutto a posto. Tanto ho sotto controllo con le schermate delle vostre telefonate all'800240024 e per i vostri sms. Allora, oggi è una giornata un po' particolare, perché avrete capito dalle news del GR che siamo tutti obbligati a tenere gli occhi e le orecchie molto attenti all'andamento dei mercati in apertura, perché balla l'eurodebito, c'è un vertice dell'Ecofin e dell'Eurogruppo straordinario in corso per vedere quale piano straordinario degli almeno 3 o 4 che si confrontano per un intervento d'urgenza per il debito greco. È colpa dell'Europa aver diluito e dilazionato per più di un anno e mezzo, per non dire con chiarezza ai propri elettori che bisogna salvare tutti i membri dell'euro area, perché è meglio così per tutti, e invece dopo un anno e 7 mesi siamo puntualmente alle prese con il default greco, che si è peggiorato come prospettiva per via delle misure che abbiamo addebitato alla Grecia buttandola in deflazione. Ma oltre alla Grecia oramai è ufficiale che anche il Portogallo è in testa di lista con gli stessi rischi, e l'Italia ha cominciato a ballare per via delle divisioni gravissime della sua politica apicale tra il Premier e il Ministro dell'Economia Tremonti, malgrado la manovra presentata, una manovra diluita in Consiglio dei Ministri, una manovra che adesso bisogna approvare al più presto, possibilmente con convergenza bipartisan, ma che va anche, così è annunciato, riscritta dal Parlamento. E in tutto questo quindi siamo al massimo degli spread, siamo con attacchi da parte di hedge fund alle banche italiane e alle quotate italiane. Le banche italiane hanno perso il 26% dall'inizio dell'anno e l'8% quasi in una settimana, 3, 4, 5 volte tanto rispetto alle banche europee, e si aspettano gli stress test. La Consob ha assunto misure straordinarie per limitare le vendite a breve sul mercato italiano. Bisognerà vedere come la giornata evolve, e quindi da questo punto di vista i colleghi delle news del giornale radio potranno intervenire ogni qualvolta lo ritengano per darvi notizie immediate sull'andamento dei mercati, degli spread o decisioni europee. Ma malgrado tutto questo, malgrado questa terribile congiuntura che ci dimostra che la crisi non è affatto alle nostre spalle, la politica su questo dovrebbe parlare linguaggio chiaro ed essere seria, dare comportamenti che siano ben diversi da quelli che leggiamo sui giornali, noi abbiamo deciso di dedicare la puntata a un altro tema, perché siccome vi invitiamo incessantemente a pensare nella vita di ogni giorno come lavoratore, risparmiatore, disoccupati, pensionati, giovani senza lavoro, a cambiare questo paese dal basso, senza aspettare che avvenga dall'alto, quando dall'alto vengono comportamenti così lontani e diversi dalla serietà, coesione e chiarezza e tempestività che l'andamento della crisi e dei mercati impongono da anni oramai, visto che siamo in questa crisi dal 2007-2008, abbiamo deciso di dedicare questa puntata a un evento, a un fenomeno che ci sembra nuovo e sul quale, questo almeno è il mio punto di vista, mi prendo questa responsabilità, l'informazione dovrebbe mettere i suoi fari e dedicare le sue antenne, come nel nostro caso che siamo una radio, dare molto spazio sui giornali e nelle televisioni, perché è un promettente nuovo segno di quest'Italia che cambia dal basso. Di cosa sto parlando? Dell'appuntamento che si è tenuto questo fine settimana, il sabato e la domenica a Siena, un appuntamento che ha segnato un nuovo passo verso lo sviluppo in Italia, la rinascita in Italia, il riradicamento in Italia di un fenomeno che da anni si era molto attenuato fino a essere quasi scomparso, il movimento delle donne. Questo movimento delle donne era tumultuosamente tornato a essere protagonista nelle piazze nel nostro paese il 13 febbraio scorso, lo ricordate, cioè abbiamo fatto 2 puntate dedicandolo alla mobilitazione delle donne che scendevano in piazza sull'onda di una più che comprensibile, secondo me, ripresa di dignità, vista la mancanza di rispetto che la politica trasversalmente, la vita istituzionale italiana trasversalmente dedica alle donne italiane. E sull'onda di quella ripresa di dignità, quel giorno, di fronte a decine e decine e decine di migliaia di donne che abbiamo visto scendere nelle piazze italiane, ieri c'è stato un nuovo appuntamento di questo movimento, se non ora quando, che tempestivamente dice riprendiamoci la possibilità di ricostruire dal basso per le donne di avere più lavoro, più dignità, più rispetto, un welfare meno lontano dalla famiglia e dalla tutela parentale che tocca alle donne nel nostro ordinamento, perché così i maschi italiani continuano a volere, a differenza che negli altri paesi. paesi, e in questo appuntamento di due giorni con una modalità nuova e diversa, interventi di pochi minuti per dare la possibilità a centinaia di donne dei 120 comitati già presenti sul territorio nazionale di decidere come, se andare avanti, con quali appuntamenti, ieri c'è stata questa decisione di andare avanti. L'appuntamento sarà per autunno. Naturalmente noi abbiamo deciso di dare innanzitutto alle organizzatrici voce per spiegare meglio con quali dinamiche, con quali aperture alla politica, con quali diffidenze, con quali nuovi coinvolgimenti, con quali nuovi strumenti, in quali tappe questo movimento ritorna nella vita italiana e con che possibilità. E anche per sentire da parte vostra, da parte di tutti voi, chiamando all'800 24 00 24, qual è la vostra prima impressione, le vostre speranze, la vostra disponibilità, se siete ascoltatrici donne da tutta Italia, a sentire come, se dare una mano, magari anche le vostre diffidenze. Ecco, questa è la nostra scelta di oggi, quindi io vi presento immediatamente i nostri ospiti e le nostre ospiti, perché ovviamente saranno loro molto più di me oggi a dover dire a voi che cosa aspettarsi, il come e il perché di questa forma, che a me sembra una delle forme attraverso le quali leggere ciò che era avvenuto nelle amministrative, nel primo e nel secondo turno, con il risultato elettorale che hanno cambiato le aspettative in città come Milano, Cagliari, Trieste, Napoli, ciò che è avvenuto poi con l'ondata referendaria. Insomma, dal basso l'Italia dà segni evidenti di non ritrovarsi nelle vecchie formule, nei vecchi strumenti e nell'attuale offerta politica. E quindi, poiché io sono un sostenitore della società civile che riprende in mano il proprio destino e non crede che la delega sola sia l'unica forma partecipativa in una democrazia, in una repubblica a rischio per i suoi comportamenti etici prima ancora che per i suoi risultati economici, io devo dire la verità, non mi nascondo che magari culturalmente ci saranno cose diverse dal mio punto di vista, ma credo che queste siano le formule assolutamente da incoraggiare. Allora, sono con noi collegati Tatiana Campioni, che è la direttrice del complesso museale Santa Maria della Scala a Siena e che all'inizio doveva essere appunto una delle sedi che erano state scelte, poi le sedi si sono ampliate perché la partecipazione e le aderenti presenti erano molto più numerose. Io la saluto intanto e la ringrazio. Buongiorno a Tatiana Campioni. Buongiorno, buongiorno a lei. Cristina Comencini, che è una regista e una delle organizzatrici principi di questa manifestazione e del movimento Se non ora quanto. Abbiamo letto sui giornali stamattina che ieri per il caldo si è sentita poco bene, ma è collegata con noi. Io la ringrazio. Buongiorno a Cristina Comencini. Buongiorno. Abbiamo Linda Laura Sabadini, che è direttore centrale dell'Istat, che ha tenuto una delle relazioni per fare il punto, e questo lo chiederemo anche a lei oggi, intorno alla condizione della donna nell'economia, nel lavoro e nella famiglia italiana. Buongiorno e grazie a Linda Laura Sabadini. Buongiorno a tutti voi. E Luigi Amicone, come contraltare, come voce che ci aiuta a capire un po' dal suo punto di vista, è direttore del settimanale Tempi, che cosa aspettarsi dal suo punto di vista da questo movimento. Buongiorno a Luigi Amicone. Buongiorno, buongiorno. Allora, Cristina Comencini, che cosa dire di questi due giorni, la sintesi del bilancio e soprattutto che cosa aspettarsi per il futuro? Ma intanto voglio dire che l'ascoltavo come economista, io sono di formazione economista, benché poi sia arrivata al cinema, sulla situazione italiana, e veramente credo che siamo un po' tutti molto preoccupati, per cui diciamo quella cosa interessa anche le donne, ecco, non è che noi siamo fuori da questa realtà italiana che è veramente secondo me molto preoccupante. E voglio dire un'altra cosa, che il mio malore non è proprio dal caldo, ma è anche un fatto incredibilmente politico, nel senso che questa due giorni a Siena, quando noi diciamo politica dal basso dobbiamo dire autonoma, quando diciamo autonomia dobbiamo dire anche soldi, cioè noi abbiamo fatto questa due giorni di Siena in totale autonomia finanziaria. E cioè abbiamo messo in moto una cosa che nei paesi anglosassoni esiste, che è la donazione, che sono le partecipazioni delle persone singole e delle imprese della società. Abbiamo messo in moto un merchandising totalmente nostro e abbiamo finanziato da sole il comitato promotore tutte queste due giorni di Siena. Ovviamente c'è stata la partecipazione molto calda e generosa del comune e del sindaco di Siena, nonché anche della polizia, del prefetto, che ci hanno dato le loro strutture, quello che avevano, e ci hanno aiutati, però era un'enorme spesa farlo e l'abbiamo fatto in autonomia totale dai partiti, perché questo è importante, perché sennò non c'è quello che lei diceva molto bene, cioè la ripresa di una politica, perché la politica non si fa, noi siamo stati abituati ultimamente a pensare che la politica si fa solo nei partiti, nei talk show dei partiti in televisione, invece la politica nel senso appunto del pensiero politico su cose che interessano tutti, secondo me viene proprio dalla società, E in questo senso il movimento Sonora Quando, che è nato il 13, il 7, questi ultimi due settimane a Siena ha trovato il suo momento fondativo, perché abbiamo detto che noi questa rete la teniamo in piedi, che è una rete di donne, di comitati che lavorano e dovranno lavorare molto sul territorio, perché non ci si deve accontentare di quello che noi abbiamo avuto, ma bisogna raggiungere le donne comuni, le donne che lavorano e che portano sulle loro spalle tutto il peso di quei dati che poi ci ha detto in piazza la Sabbadini, che sono dunque concretamente esperienze di vita, vanno collegate a noi. E anche chiaramente a Siena è stato detto che quello che si è detto lì è già un'agenda politica delle donne. E in più, altra cosa che è molto difficile e che secondo me è la grande novità del movimento, è la trasversalità, molto difficile da applicare in un'Italia divisa, in un'Italia in cui non si riconosce che esistono delle questioni di tutti, che esistono delle questioni che sono fondamentali per la modernità e che interessano tutti. E dunque le donne hanno fatto questo, perché il 13 non sarebbe stato così grande, la più grande mobilitazione italiana della storia, perché non si sono mai mosse tante piazze tutte insieme nello stesso momento, se non ci fosse stato questo accordo che le donne sentono molto, e cioè ci sono delle questioni che interessano tutte le donne, laiche, religiose, riportando il sentimento religioso non più come una cosa calata dall'alto della Chiesa, ma come qualcosa che è una scelta personale, e anche donne di posizioni politiche completamente diverse. Questa cosa è una cosa difficile da applicare in Italia, perché l'Italia è un paese di dissidi e di divisioni e di grandi divisioni ideologiche, anche se poi le grandi ideologie non ci sono più, però dentro permane questo sentimento forte di riconoscimento rispetto al contro e non rispetto al fare insieme. Questa cosa qui secondo me sarà, queste cose che ho detto saranno il nostro percorso per andare avanti nell'autunno, in una situazione politica che si fa sempre più complicata, in cui le donne secondo me possono portare questo punto di vista forte e allo stesso tempo però unito, perché la cosa bella sabato in particolare è stato sentire parlare donne che venivano dalla Sicilia, dall'ultimo lembo della Sicilia fino al Veneto, in un paese che è diviso, sentire parlare le donne insieme, che si raccontano e capiscono che ci sono cose tanto diverse e poi tanto simili. Ecco, questo è stato veramente, è stata una grandissima cosa, Siena. Sabbadini, come mai, se dovessimo tentare in 3 minuti di dare un flash comparato, la situazione dell'Italia dal punto di vista della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dal punto di vista della progressione a parità di merito nelle qualifiche, dal punto di vista delle retribuzioni, dal punto di vista del tempo che chiediamo alle donne rispetto alle donne degli altri paesi avanzati europei di dedicare alla cura parentale e familiare, cioè al lavoro non retribuito e non riconosciuto. Perché, secondo lei, nell'evoluzione dell'ordinamento del lavoro previdenziale, contributivo del nostro paese, del mercato del lavoro, alla fine le donne, insieme ai giovani per via della bipartizione del mercato del lavoro e delle garanzie, ma perché le donne hanno finito per rappresentare rispetto a qualunque altro paese il soggetto debole sulle cui spalle carichiamo tanti gravami con così pochi riconoscimenti e possibilità concrete di realizzare le proprie ambizioni nella vita? Il nostro sistema di welfare è un sistema di welfare che si è basato sul lavoro non retribuito delle donne da decenni. In sostanza il pilastro fondamentale del nostro sistema di welfare è stato il lavoro non retribuito, il lavoro di cura. Allora, finché la pressione delle donne, finché il tasso di occupazione femminile non cresceva con forza, finché la maggioranza delle donne, la stragrande maggioranza, era disponibile a svolgere il ruolo di casalinga, tutto questo poteva in qualche modo incastrarsi, ma nel momento in cui Le donne hanno cominciato ad emergere, hanno investito in formazione, hanno investito in cultura, sono entrati, hanno svolto una vera e propria rivoluzione nel mondo della formazione, sono entrati in tutti i corsi di formazione, anche quelli più maschili, sono cominciate a entrare anche nelle professioni più direttamente maschili. Quello che sta succedendo e che sta avvenendo in qualche modo, si sta evidenziando la contraddizione tra un sistema di welfare che vede il lavoro non retribuito come centrale nella sua configurazione e delle donne che vogliono invece emergere, che vogliono lavorare, che vogliono anche progredire in carriera. Quindi ormai la contraddizione è diventata esplosiva. Chiaramente il problema che si sta evidenziando è che a fronte di questa forte spinta che c'è da parte delle donne, c'è una forte chiusura da parte di un sistema che, se si deve riconfigurare come sistema di welfare, ha bisogno di investire decisamente su altri strumenti diversi da quelli del lavoro non retribuito delle donne. Quello che noi stiamo vedendo e che abbiamo documentato ampiamente anche nel rapporto annuale sullo stato del paese è che man mano che passano gli anni, seppure le donne contribuiscono tantissimo, perché 2 miliardi di ore in un anno che vengono date dalle donne per lavoro di cura ad altre famiglie, quindi escluse i membri della propria famiglia, sono una cosa enorme, quello che si evidenzia è che man mano che si va avanti le donne cercano di condividere questo aiuto sempre di più con altre persone perché non ce la fanno più, diminuiscono le ore che danno di aiuto, raggiungono sempre meno persone perché non ce la fanno, ma questo va a discapito delle stesse persone che non ricevono più quegli aiuti, cioè chi glieli darà questi aiuti in prospettiva? Cioè il nostro sistema di welfare come si riorganizza per far fronte ai nuovi bisogni, ai nuovi desideri che le stesse donne hanno, perché ovviamente hanno investito di più su se stesse e a questo punto vogliono contare di più, vogliono lavorare. Chi si farà carico di tutto ciò? Allora, o ci si dà in qualche modo una strategia per compensare, per rifondare in qualche modo questo sistema di welfare, o il rischio è che né le donne ce la fanno più e quindi continuano ad essere penalizzate da questo sistema da un lato, né quei soggetti che ricevevano gli aiuti delle donne ce la faranno più, e il rischio è che per esempio tra gli anziani eccetera aumenterà pure l'emarginazione sociale. Allora, sta succedendo quello che un po' temevo: i primi sms che arrivano al 349-238-6666, diversi a dire la verità, non sto parlando di uno, due o tre, dicono: ma come, avete scelto questo tema proprio in una giornata come questa, così tesa tra mercati, politica europea, l'Italia che rischia, lo spread? Difendo questa scelta, cari ascoltatori, perché forse non è chiaro che è da un punto di vista sistemico che bisogna rimettere in ordine innanzitutto i conti intergenerazionali e tra i generi nel nostro paese. Se solo riuscissimo ad avere una politica capace di vedere così lontano da interventi sistemici, capaci per esempio di farci recuperare in buona parte il gap di partecipazione delle donne al mercato del lavoro italiano, il PIL, se avessimo questo obiettivo, il PIL italiano, se avessimo una partecipazione delle donne al mercato del lavoro paragonabile a quella tedesca, noi avremmo un PIL di 7-8 punti più elevato di quello che abbiamo. Non sono cose che si fanno in un giorno, in un mese o in un anno, ma c'è bisogno di una visione lunga, non è solo una questione di giustizia elementare tra generi, che io avverto in quanto maschio e so bene che sono in minoranza, perché tutte le volte che faccio queste puntate mi becco i messaggi come quelli che leggo adesso, che dicono: ma che ci occupiamo delle donne oggi? Il mio modello, e mi auguro il modello del mio paese, non può e non deve essere quello dell'azienda lombarda che di fronte alla restrizione della pianta organica per la crisi manda a casa le lavoratrici donne dicendo: così si occupano della famiglia, ma meglio tutelare i lavoratori maschi. Finché noi continueremo a credere che questo è lo standard, la modalità di un paese avanzato, significa semplicemente che l'Italia, se non reagisce con tutta la durezza del caso, io ero curioso su quel caso, non ho visto reazioni di sdegno propalarsi sui giornali, ecco, vuol dire che noi non siamo un paese avanzato. Questa è la mia modestissima, minoritaria opinione. inizia a venire, a dire la verità, qualche messaggio anche di tipo diverso, tipo un plauso a queste donne che stanno reagendo, io mi stavo rassegnando al peggio, grazie, grazie Anna di Rivoli, oppure Alessandra che dice: io donna comune sono ben disposta a dare una mano a patto di sapere dove contattare i comitati e soprattutto di non trovarmi però nuovamente in un movimento di chiacchiere identitarie e niente fatti. Ecco, questo è un aspetto, io chiedo a Tatiana Campioni, che era una delle organizzatrici, ha messo a disposizione, abbiamo visto che Siena in realtà si è mossa anche con le sue istituzioni, lei aveva messo a disposizione la possibilità appunto che la manifestazione si tenesse in una delle sedi. Stiamo parlando di una donna che ha un incarico di rilievo nella tutela dei beni museali italiani, e a lei chiedo, nella sua esperienza, nella sua impressione, in che cosa questo nuovo movimento dovrebbe rispondere alle preoccupazioni della nostra ascoltatrice Alessandra, che dice: non chiacchiere ma fatti? Beh, intanto, buongiorno, intanto diciamo che appunto vogliamo rapportarci anche col potere, anche con la politica, cioè nel senso che Siena è stata diciamo un successo non soltanto nell'organizzazione ma anche nei contenuti e nel metodo diciamo del confronto. I contenuti sono stati molto alti e il metodo del confronto molto civile, molto democratico, siamo riusciti a far parlare tutti coloro i quali volevano intervenire, e questo deve rappresentare, come diceva giustamente lei, un punto di riferimento. E poi non siamo, anch'io voglio dire, rispetto a questa situazione economica molto difficile del paese, noi non siamo indifferenti, cioè non siamo le donne che rivendicano come dire, solo i problemi delle donne, cioè entriamo, anche se sicuramente cerchiamo di trovare i temi che ci uniscono, non quelli chiaramente che ci dividono, ma anche rispetto alla crisi economica noi diciamo: non mandate sprecate le eccellenze femminili, cioè ormai le donne hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutti i campi, non soltanto in quelli umanistici. Io dirigo un museo ma sono un ingegnere e ho, come dire, e però credo che queste potenzialità ancora non vengono sfruttate, anche se questa è una brutta parola, così come quando abbiamo delle manovre finanziarie che tagliano sui servizi, aumenta il lavoro delle donne, cioè quello che diceva prima Linda Laura Sabatino è giustissimo, cioè è evidente che ancora tutta l'assistenza ai bambini, ai malati, agli anziani è in mano a loro, tagliare i servizi vuol dire farti aumentare questo lavoro. Quindi non è che parliamo solo di cose diciamo identitarie che riguardano, certo cerchiamo di trovare i temi che ci uniscono, non certo quelli che ci dividono, ma questo dovrebbe essere un metodo, cioè noi pensiamo che anche tutti i partiti politici dovrebbero in questa situazione difficile trovare di fare delle regole insieme, condivise da tutti. Luigi Amicone, ci sono stati due passaggi prima nell'intervento di Cristina Comencini dedicati anche al tema della laicità, e nella storia del movimento femminista italiano negli anni 60, poi si è voluto negli anni 70, questo è stato uno dei temi inevitabili in cui nel rapporto tra corpo, etica, oggi si direbbe bioetica rispetto agli sviluppi che poi ha avuto la scienza in ordine alla vita, alla morte, a come l'ordinamento consente la declinazione delle volontà individuali e parentali rispetto a ciò che è fissato in legge, questo è uno dei temi più caldi, inevitabilmente è stato così nella storia e oggi lo è tornato per ragioni diverse, visto che la scienza ha fatto passi avanti, quindi c'è il tema anche della tradizione italiana che ha a che vedere con l'etica della Chiesa, con la storia della famiglia italiana rispetto alle richieste, ambizioni e diritti negati delle donne. Da questo punto di vista Luigi Amicone, direttore di Tempi, quindi insomma di una testata che non nasconde il proprio radicamento nel mondo cattolico, che cosa si aspetta da questo movimento e da che cosa lo vuole mettere in guardia, se si può usare giornalisticamente questa espressione un po' dura forse? Tu che pensi? Sì, mettere in guardia dal fatto che non diventi una dependance del partito di Repubblica piuttosto che di un partito salottiero elitario di una certa borghesia anche femminile, che non diventi un movimento come nelle sue origini forse ha un elemento come dire reattivo, no? Ci ricordiamo che nasce come reazione a una certa vicenda che riguarda il Premier e quindi rispetto a certi comportamenti. Devo dire che ecco, proprio questo è il punto che non so, magari poi mi diranno le colleghe amiche, non si è sentito a Siena nulla sul fatto che le donne sono oggi oggetto del, diciamo, del più gigantesco programma di laboratorio, dal commercio degli ovociti, gli uteri, tutto il vario pillolame di ogni tipo, macchine per riproduzione su commissione, vedi il compagno Elton John. Voglio dire, su queste cose non si è sentito nulla ed è invece sul piano, diciamo, del capitalismo maturo e dell'ideologia connessa adesso mi pare che le donne sono oggetto della più diciamo dei programmi veramente di laboratorio di massa che voglio dire non si ricordino da molto tempo. Ecco, su questo non ho sentito nulla, oppure ci sono intere masse di donne non in Occidente ma Pakistan, Arabia Saudita, che sono quotidianamente rese schiave, donne come Asia Bibi, come Fatih, non abbiamo sentito nulla rispetto a anche solo avvertire come dire il problema, il dramma di queste donne che sono a un livello rispetto alla condizione occidentale, diciamo, da situazione dell'età della pietra, e su questo bisognerebbe forse che, se un movimento di donne si caratterizza per l'emancipazione, dica qualche cosa. Aspetta un secondo, fermati un secondo, sentiamo subito Cristina Comincini, perché è ovvio che io ho chiesto a Luigi Amicone apposta questo intervento un po' abrasivo e caustico, perché la mia impressione è che negli anni alle nostre spalle la politica italiana abbia usato una specie di asta competitiva alla ricerca di toni sempre più estremi e di soluzioni sempre più estreme. Io ne parlo a proposito, per esempio, della legge 40, ecco, e che la politica in questo abbia fatto ogni volta una specie di scommessa elettorale su come un certo numero di voti contrassegnato da più rigoroso rispetto a etiche che rispetto al totale della società italiana secolarizzata sono minoritarie, la politica ha finito poi per intervenire a piedi uniti anche sui temi che riguardano i diritti, la vita e così via. Allora, da questo punto di vista, il movimento delle donne che nasce, quali garanzie può dare di comprendere al suo interno le diverse sensibilità che sono presenti in questo tra le donne italiane come nella società italiana, con un po' di rispetto in più rispetto a quanto fatto la politica quando si è trattato di prendere soluzioni legislative su temi così delicati? Secondo lei come andrà, Cristina? Intanto voglio dire la prima cosa, che i rischi che sono detti sono reali e noi credo che abbiamo dato prova a Siena di un prima così volontà di superarli, come la reattività e tutte queste cose, no? Cioè che c'erano certamente nel 13. Noi abbiamo una mente costruttiva, cioè questo è stato dimostrato a Siena, e proprio per questo non possiamo occuparci di 20.000 temi, perché dobbiamo focalizzare l'attenzione su quello che ci è sembrato, ci sono sembrati due nodi fondamentali, che è il rapporto tra maternità e lavoro, che le donne italiane sentono sulla loro pelle in un modo spaventoso e che i dati appunto ci raccontano in un altro modo, e che non dà la possibilità alle donne di contare nella società, cioè prima ancora di poterci noi interessare a delle cose che sono fondamentali e di cui certamente al nostro interno parleremo a lungo e con diversità di opinione, perché chiaramente avendo dentro nel movimento donne così diverse ci saranno sicuramente molte diversità e cercheremo di sperimentare la costruzione su degli accordi parziali anche, per cui sicuramente questa tutta la problematica arrivata alla vita è una cosa che interessa tutte noi enormemente, perché interessa noi stesse anche, al nostro corpo, per cui sicuramente. Però noi abbiamo creduto nelle priorità, ci sono delle scale, no? Dei momenti in cui devi discutere di certe cose e lasciare un attimo da parte altre cose. Qui c'è un'emergenza delle donne in Italia, questa cosa Rossellini avrebbe intitolato questo film Italia anno zero, cioè le donne in Italia non hanno nulla. E allora, partendo dall'idea dal problema del lavoro, della maternità, della rappresentazione delle donne, dei corpi delle donne, che secondo noi, e questo è stato molto ben relazionato assieme, legato, perché le donne che fanno una vita arcaica vengono rappresentate in modo arcaico, e dunque questa cosa, questo legame che poi interessa in modo più ampio ancora la sessualità, il potere, tutte queste altre cose che sono legate, ci è sembrato non solo a noi del comitato promotore, ma a tutti i comitati, perché questi temi sono stati lanciati molto prima, la discussione è avvenuta in rete, come il nodo fondamentale sentito non solo poi dalla mia generazione, ma dalla generazione delle più giovani, che si affacciano sul mercato del lavoro precarissimo, in cui forse non ci sarà neanche l'idea della possibilità di avere un bambino, e questo in un paese cattolico, in cui viene continuamente messa al centro, per me giustamente anche, l'idea della famiglia. Dunque questo è un'emergenza. Poi la costruzione di questa rete delle donne permetterà assolutamente, e forse sarà lì il terreno ricco che si arricchirà delle differenze, di poter dare alla politica l'esempio di una discussione tollerante e profonda su questi temi di cui nessuno ha la soluzione in tasca, perché sono temi che evolvono, che hanno estreme conseguenze nel mercato, che ovviamente nessuno di noi può avallare in quanto donne, anche soprattutto, però che presentano delle grandi difficoltà di comprensione. Dunque tutto questo verrà affrontato. Una sola cosa, siccome siamo molto sensibili ai messaggi delle donne, di tutti, vorrei dire a quella messaggio di quella donna che ha detto una cosa che mi interessa molto, cioè purché si facciano cose concrete e non solo identitarie, no? Le cose concrete ne abbiamo parlato tanto, ed è diciamo la novità assoluta di questo movimento delle donne, il fatto che parla di cose alla politica, vuole entrare nella politica fatta però appunto dal basso, e rivolge dunque questa forza, la mette davanti ai partiti, e anche il fatto che si parla di cose concretissime. Però voglio dire una cosa, la coscienza di sé, le donne italiane l'avevano perduta, il senso identitario di essere una forza collettiva in un paese l'avevano perduta, tant'è che hanno potuto fare sulla nostra pelle quelle rappresentazioni, e ognuno di noi che andava all'estero se le sentiva rimproverare dalle colleghe, dicevano: ma come mai voi in Italia donne non fate nulla per questo? Se viene ammazzata una donna ogni due giorni, vuol dire che la coscienza anche di sé, il senso identitario delle donne collettive, cioè che noi siamo una forza grande e che delle cose su di noi non devono avvenire, è importante, deve andare di pari passo con quell'agenda politica concreta che giustamente la donna che ha scritto rivendica come un fatto fondamentale. Allora, nel frattempo dai mercati avviene questo, che sulla piazza italiana abbiamo CIR che sull'onda della decisione del Corte d'Appello del Tribunale di Milano è continuamente sospesa per eccesso di rialzo, mentre Mondadori perde quasi il 3%, e abbiamo sul fronte degli spread, cioè del differenziale dei titoli pubblici decennali rispetto a quelli di riferimento tedeschi, il fatto che la Spagna in questi 20 minuti ha superato l'Italia, e quindi la Spagna ha uno spread sul Bund di circa 300 punti rispetto alla soglia di meno di 250 sulla quale noi per il momento restiamo fermi. Non è una notizia dalla quale mettersi a ballare, dicendo che gli spagnoli stanno peggio di noi, è semplicemente la testimonianza che naturalmente i mercati continuano ad avere un'elevatissima volatilità sui CDS e gli spread. Tra le tantissime telefonate ne hanno selezionate due, cominciamo con Silvana che ci chiama da Latina. Prego Silvana. No, Silvana Latina è caduta, mi pare di capire. Allora abbiamo Massimo che ci chiama da Roma. Buongiorno, complimenti per la trasmissione e il tema affrontato questa mattina. Volevo portare la nostra testimonianza. Io e mia moglie abbiamo capito che c'è qualcosa che non va nel sistema sociale sulla nostra pelle. Ormai ci definiamo degli sfigati perché purtroppo lavoriamo entrambi con due bambine, viviamo in un paese alla periferia di Roma, con un tessuto sociale medio-basso, e abbiamo visto che la gran parte delle famiglie non hanno la moglie che lavora, e loro sicuramente vivono meglio di noi. Questa lei dice la... vivono meglio di voi, cioè meglio avere meno reddito disponibile ma la moglie a casa? Evidentemente è stato strutturato un sistema sociale ed un sistema fiscale che spinge la gran parte delle donne a fare una scelta dopo il matrimonio e soprattutto dopo la maternità di rimanere a casa. Questo li porta ad avere un rapporto familiare con il proprio coniuge, con il proprio marito, in questo caso dove la moglie non lavora, e con i propri figli, vantaggioso rispetto alle quelle poche coppie che ancora lavorano, insomma. Domanda per la Sabadini, è un fatto che in termini comparati a parità di carico di figli in famiglia e di reddito disponibile, il fisco italiano esercita una pressione oggettivamente molto più sfavorevole alle famiglie numerose di quanto avvenga in Francia, Germania, cioè non sto parlando di paesi a bassa pressione fiscale o di modello di common law, sto parlando di paesi dell'Europa continentale in qualche maniera in cui il livello di spesa su PIL e il livello di pressione fiscale è totalmente paragonabile alla storia, all'evoluzione e anche ai livelli nostri. Da questo punto di vista, da anni si dice a chi propone il quoziente familiare che è troppo oneroso per gli effetti che avrebbe sui saldi di gettito, e lo schema italiano è quello di aver accumulato deduzioni e detrazioni, quindi agevolazioni fiscali, che però non ottengono questo effetto. Se dovessimo pensare a un intervento non scarso sistema, ma compatibile con l'obiettivo di rientro della finanza pubblica italiana, l'esperienza degli altri paesi cosa ci direbbe in proposito rispetto alla situazione del nostro ascoltatore, che è la situazione generale della società italiana? Ma l'esperienza dei paesi ci direbbe che dovremmo sicuramente investire di più per quanto riguarda la parte dei servizi sociali, che siamo, rispetto alla quale noi siamo molto, molto più indietro. Cioè, il problema è che nel nostro paese la parte di spesa sociale, la quota di spesa sociale sul PIL, seppure è cresciuta, ha una distribuzione molto particolare, e tutto ciò che ha a che fare con la spesa per la famiglia cosiddetta, e quindi tutta la parte che riguarda servizi sociali eccetera, è assolutamente penalizzata, quindi noi da questo punto di vista siamo un poco il fanalino di coda. Questo sarebbe un elemento che alleggerirebbe molto di più il carico sulle donne, perché la cosa che ci diceva l'ascoltatore è molto chiara, cioè da un punto di vista, anche se io aggiungerei che i rischi che corrono quelle altre famiglie non sono pochi, nel senso che poi quando una famiglia è monoreddito, dipende pure dal numero di figli che si hanno e dal tipo di lavoro che fa il marito, ma il rischio di cadere in povertà è molto elevato, quindi probabilmente da un punto di vista dell'equilibrio per una certa fase le cose possono pure andare a bene, perché il sovraccarico di lavoro sulle donne è minore e quindi questo facilita un certo equilibrio, però da un altro punto di vista il rischio, a fronte anche del sopravvenire di crisi eccetera, di cadere in povertà è molto elevato per quelle famiglie. Ecco, questo che ci sta dicendo la Sabadini è un classico esempio di come va riorientata la spesa italiana e del come e del perché bisogna scegliere con grande attenzione e non fare tagli lineari, perché noi abbiamo un totale di spesa corrente pubblica che è più elevato della media degli altri paesi europei, ma il problema è che destiniamo a ciò che lo Stato dovrebbe fare davvero, per esempio appunto la spesa sociale per la famiglia, molto meno degli altri. Questa è la prova che occorre scegliere, capito? Invece di dire, pur di fare i saldi, di rientrare nell'azzeramento del deficit al 2014, che è una regola aurea che si dovrebbe dare alla politica e mantenerla con comportamenti conseguenti, ma il problema è che se si taglia laddove c'è già, si continua ad avere troppo laddove non dovrebbe esserci e troppo poco laddove, come nel caso del sostegno alla famiglia, invece dovrebbe esserci. Un altro ascoltatore che è Daniele, ci chiama da Prato. Prego Daniele. Sì, prima di tutto voglio fare gli auguri a questo movimento e spero che cresca. E spero di vedere presto un ministro dell'economia donna. E adesso la domanda un po' provocatoria, ma se decidesse di iscriversi a questa rete anche delle importanti signore, donne che ora rappresentano i partiti, penso alla Finocchiaro, Santanché o altre figure importanti, verrebbero accettate all'interno della rete oppure… Oppure no, grazie Daniele, perché è un tema delicato, perché forse nell'esaurirsi del femminismo italiano, al di là della forma che ha avuto esplosiva quando si portarono anche nella società italiana, come al costume delle altre società europee, la rivoluzione dei diritti di genere, i diritti civili, nuova legislazione della famiglia, dell'aborto e così via, e poi in realtà è stato l'inaridirsi del collateralismo femminile dei vecchi partiti anche a spiegare perché poi il movimento in larga misura si è inaridito. E adesso il problema è il rapporto con i partiti. Alle parlamentari a Siena hanno parlato esattamente come tutti gli altri, l'abbiamo letto, 3 minuti, ma Cristina Comencini a questa questione delicata, il rapporto con le donne nei partiti, cosa risponde? Ma diciamo, rispondo intanto con la storia che abbiamo avuto, cioè alcune donne hanno firmato il primo appello del 13, no? E dunque quando poi hanno venuto a Siena e hanno chiesto di parlare abbiamo dato la parola, giustamente come tutte le altre. Però io ho una mia personale diciamo opinione, che poi dopo Siena andrà confrontata anche con le altre. Penso intanto all'ascoltatore, rispondo che secondo me potrebbe entrare a titolo personale, cioè non rappresentando il suo partito, ma come donna, se lo vuole, che bisogna vedere se poi trova il tempo, perché l'altra problematica è che noi abbiamo poco tempo anche per organizzare dei movimenti politici, perché se l'ascoltatore ha detto questa cosa dei due poverini che decidono giustamente di essere moderni, di lavorare tutti e due e di avere i bambini, esperienza di tutte noi, vuol dire che metterci dentro anche l'attività per un movimento politico è qualcosa di, come posso dire, più del circo, più del giocoliere, è una cosa quasi impensabile, no? Per cui poi bisogna vedere chi si dedica a questo lavoro. Però detto questo, penso che l'atteggiamento deve essere di non chiusura mai, per cui certamente di apertura alle donne appunto politiche che vogliono iscriversi, oppure non c'è nessuna di partecipare al lavoro, perché per il momento non ha nessuna struttura, siamo un'associazione totalmente aperta, non ci sono iscrizioni, non ci sono deleghe, non c'è niente di tutto questo. Benissimo, però penso quindi, che la sì? Apertura con su piede paritario, ma nessuna diciamo di posizione privilegiata rispetto al partito. Movimento all'ascolto dal basso, il mio appello a tutte le ascoltatrici è: se siete interessati, i comitati ci sono in 120 posti in Italia, io non faccio supporter di nessuno, ma credo in questa possibilità di cambiare dal basso, sono profondamente convinto che questo riguarda su altre materie, i diritti tributari, i diritti di noi contribuenti, i diritti dei lavoratori autonomi, ma le donne sono una questione, insieme ai giovani sono le due questioni fondamentali del futuro dell'economia e di un civile più civile ordinamento del nostro paese. C'è anche una questione di testa e di costumi, lo dico sempre, io lavoro da quasi 30 anni, in tutte le aziende dove ho lavorato mi è capitato di imbattermi in mobbing contro le donne, non credo di aver beccato l'eccezione delle aziende italiane, considero questa roba una roba di cui io continuo a vergognarmi come maschio cittadino italiano, e credo che da questo punto di vista i miei cogenerici, cioè i maschi, abbiano una seria questione in generale da affrontare nella propria vita quotidiana, di mariti, fidanzati, nonni, zii, cugini. Ecco, questa è anche una questione rispetto alla quale secondo me non bisogna nascondersi dietro un dito. Bene, ora io ringrazio Cristina Comencini, Luigi Amicone, Linda Laura Sabadini e Tatiana Campione, abbiamo tentato di aprire una finestra e dare ascolto a questo movimento. Ora la linea torna al Giornale Radio, a quello che succede sui mercati in questa difficile giornata. L'appuntamento con noi è a domani, grazie a tutti.